Scusate, salve, scusate, c'era spostare una macchina. C'era spostare una macchina grigia e qui, proprio qui fuori, dietro la camionetta e. Bello, c'è un cinema. Bello. No, dicevo, c'era spostare una macchina grigia, non ho visto la marca e la targa, però è proprio qui fuori, me l'hanno messa davanti alla camionetta, siccome. Bello però il cinema. Ci andavo anch'io da ragazzo, non me lo ricordavo proprio così, però. Niente, quello della macchina grigia, devo andare fuori a vedere la targa. Ma è proprio qui, poi quando l'ha messa, dovrebbe anche averlo visto che c'era davanti alla camionetta e. Oh, non c'è fretta, vado via tra un'ora e mezza, quindi non c'è fretta. Però ho detto, poi metti che il cinema finisce dopo e poi a me mi tocca star lì a aspettare senza motivo. Come quella volta a Brindisi. Una volta a Brindisi. Ho dovuto aspettare 3 ore. Perché un Pirletti, no? Mi aveva messo la moto dietro la camionetta e io non riuscivo a uscire. Sì, lo so cosa che state pensando. State pensando che la moto, uno se vuole, la può spostare anche senza far fatica da solo e senza aspettare il proprietario. Giusto, avete ragione. Ma è una questione di principio. Cioè dico, tu l'hai messa e tu me la sposti. E se no poi uno crede che può fare quello che vuole, che la strada è casa sua e può fare tutto quello che gli pare. E poi dicono di noi e degli incidenti sulla tua strada. Vabbè, lascia stare che tanto sono sempre i soliti discorsi. Vabbè, quello della macchina grigia di te. Non. Vabbè. Che poi dicono. Però alla fine, chi è che gli porta tutto quello di cui hanno bisogno? Chi è che fa su e giù, avanti e indietro? Che alla fine il camion diventa un po' come una casa. Sì, come una villa. Che per essere grande lascia stare che è grande. Solo che tu puoi vivere solo nello sgabbiotto. Sai com'è che la chiamano? Quella casa lì dove c'è la servitù, mentre invece i padroni scorazzano da una parte all'altra della stanza, della casa. Non per fare discorsi di politica. A me non mi è mai fregato niente. Anche se io le idee ce l'ho, eh. Ah, non dovete credere che perché uno è camionista, allora è ignorante, gli va sempre bene tutto. No. Innanzitutto ho studiato, sia chiaro, che io questo lavoro qui lo faccio per passione. E me lo ricordo ancora quella mattina lì. Il primo regalo che ho visto sotto l'albero è stato lui. Un camion di plastica giallo, bello, grande così. Un ribaltino, che gli potevi mettere su la sabbia, la ghiaia, tutte quelle cose lì, no? E poi. Sì, vabbè, adesso c'ho il bimbo, cosa c'è? Però la passione è nata quella mattina lì, con ribaltino. Sì. Che io, i miei studi li ho fatti, li ho fatti e come? Che la mia mamma mi ha fatto anche una targhetta. Con su scritto RASH, un raggio di sole. E solo che a me, di stare seduto tutto il giorno, in ufficio, in banca, in quei posti lì, non mi andava. No, io voglio stare seduto, sì, ma in giro. Perché quando sei sul camion, è un po' come essere su una giostra, su un calcio in culo. Ti devi con la tua bella catenella al seggiolino e poi via, vai, a cercare di sorvolare tutto quello che hai davanti a te, e vuoi anche tu, e vai, e uno, e due, e tre, e vai, tre colpi, un colpetto, un colpone, e via! Che poi è così che mi chiamo, tre colpi, un colpetto, un colpone. Rom, rom, rom, poi uno piccolino, rom, e poi uno forte, con l'acceleratore, rom, che mi devono sentire tutti che sto arrivando. Vai, tre colpi, un colpetto, un colpone, oh! E sì, che ce l'ho anche come raro, Civì, tre colpi, un colpetto, un colpone. A dire la verità, io volevo mettere Civì e Raggi. Così tanto per dare un po' di soddisfazione alla mia mamma. Però si sa com'è che vanno queste cose. Cioè, dico i soprannomi, mica te li scegli. Ti rimangono appiccicati, attaccati, come le malattie. Ti prendono loro, capito? Però a lui mi piace, Tre colpi, un colpetto, un colpone. Bene. Che poi, a volerla dire tu. A noi più che Raggi, dovrebbero chiamarci Geom, Inch. E sì, perché alle volte devi fare di quelle manovre, che altro che conoscere i numeri, le trigonometrie e tutte quelle cose lì. Mi ricordo, ad esempio, una volta, dovevo entrare dentro in un cancello grande così. Poi giuro, non ci stava un capello né da una parte né dall'altra. Ma dove vai? di Arturo per usare meglio il servostezzo. Proprio il momento giusto, quel momento lì, che se lo fosse un attimo prima o un attimo dopo, ma finire che rimane imboccato dentro del vicolo che non arrivano i vigili del fuoco, rimani lì. Ma non vedi che non ci passo? Ma spacchi tutto! Guarda che tocchi dentro il cancello! Vieni via, vieni, mannacci, ti ho detto! Lascia fare! E poi, mentre tutti si aspettano una serie di curva a sinistra, il tre colpi ti fa una finta a destra e nel silenzio più assoluto, con una manovra sola, ti entro dentro il culo del cortile, che non ci stava un ago né da una parte né dall'altra. Tutti lì zitti a guardare, poi scatta un applauso che un raggio qualsiasi, se lo sogno un applauso del genere nella sua vita, non ce l'avrà mai nella sua vita piatta un applauso del genere. Vabbè. Comunque, macchina grilla niente, eh? Che poi a dirvi la verità, star qui è bello. Dico nei cinema, bello. Che sembra sempre che da un punto all'altro ti debba arrivare una musica. Na, na, na, na, na, na. Come vuoto. Ah, sì. Beh, nei cinema è bello, no? Perché nei cinema si raccontano le storie. E tu sei lì, le guardi, poi alla fine ti alzi, te ne vai a casa, ridi, piangi, e magari quella storia lì te la porti via insieme a te, perché ti rimane addosso appiccicata per tutto il giorno, magari anche la notte, magari anche il giorno dopo. Ma tanto alla fine c'hai la tua di storia. E così anch'io la mia. Che ognuno c'ha la sua. Io ho fatto la linea Atene Varese per 13 anni, sempre la stessa vita, 13 anni, sempre la stessa strada. Ho parlato con ogni pietra di quella strada, ma non lo sapevo mica che c'era un posto dove non esisteva la musica. Me l'ha detto dopo un po'. Non so, avete presente le pecore? Loro si muovono tutte insieme in gregge, no? Poi però metti che una all'improvviso scatta da una parte, via, tutte lì. Cambia direzione e tutte dietro a seguirla, che magari quella si butta giù da un dirupo, da un precipizio, tutte giù, via. Ma non è per fiducia che lo fanno, no. È che loro sentono il movimento, lo scatto, hanno i nervi così tesi, sono così allertati, perché per loro ogni movimento è pericolo. Eh sì, sì, perché un filo d'erba si lascia mangiare tranquillo, non si muove. Ma tutto il resto, tutto quello che si muove, uomini, animali, è già pericolo, è già dolore. Eh sì, perché tu sei il loro filo d'erba. E ti prendono, ti squartano, ti staccano. E a parlarsi è così. Uomini come pecore si muovono in gregge. Loro aspettano che il camion rallenti, no? E lo sanno benissimo perché deve per forza rallentare. E poi via, tutti a inseguirli, ad allungare le braccia, cercano di toccarlo il camion. Il culo del camion che diventa come il culo delle lavandate, bello, prosperoso. E loro che stanno lì tutti a cercare di toccarlo, che ci muoiono di piacere, e tu puoi chiuderlo come vuoi, lo sportellone del camion, chiudilo come ti pare, che tanto quelle bestie te lo aprono ugualmente. Ma che non riuscivo mica a capire come facevano. Ti metti sui lucchetti, le serrature, quelli te lo aprono uguale. Ah sì? Ah sì? E allora io ho trovato il sistema della vasellina. E che cavolo, voglio non vedere tutte le mie serrature, i miei bei sistemi di sicurezza? E allora io ti voglio divertire, capito? Ci metto su la vasellina, la metto sotto nella maniglia, così quando quelli si appendono, boh, giù, come nelle mature. Poi ma non te la danno mica la soddisfazione, non sarà via mica, no. Anzi, alcuni non smettono neanche di correre. Cadono giù, si mettono in piedi, via, se la leccano come se fosse marmellata. E sono capaci di aprire anche con la testa lo sportellone. Non so com'è che fanno, loro sono lì con le mani, fanno una corsa, poi a un certo punto, boh, movimento di bacino, colpo di rete, movimento con la testa, oh, e sono su. E poi dipende da quello che c'è su. Sì, perché se non sei carico, se sei vuoto, e beh, non ci salgono mica. E no, perché li vedono subito, li sgamano subito, no? Deve essere un carico di quelli belli pieni. Quando il carico è così, loro fanno un salto tipo alla Fosbury, no? Cioè, loro mettono un piede sulla padella di dietro, si danno lo slancio, colpo di rete, movimento di bacino, con un braccio con un fortello e hop, e sono su. E poi dipende dal carico. Perché se il carico è di quelli giusti, tirano su anche gli altri. Altrimenti si infilano loro e buonanotte. Che poi tra l'altro, sulla Berta, che è lei, la mia camionessa, la predellina di dietro non c'è. E quindi la finta non se la possono dare. Anzi, non potrebbero. Perché Boia e Lucani non so come che fanno, se la danno ugualmente. Loro fanno una specie di pedalata nell'aria, no? Poi colpo di bacino, colpo di, insomma, detto prima, e sono su. E poi vedono, perché se il carico di quelli vuole, sta su anche in 20, che tu a guardare dici, ma come cacchio fanno? Perché va bene essere magri, e per essere magri, lascia stare che sono magri, ma bisogna anche essere fatti di burro, perché ti devi plasmare tra una cassa e l'altra in ogni pertugio della nave. Ma come? E poi il peggio è quando ti dicono che ti sei messo d'accordo. Sì, sì, l'hai fatto apposta, lo sapevi, li hai portati qui per un po' di soldi. Uè, uè, nani, babisa, uè, cambia atteggiamento con me, capito? Qua ho messo d'accordo che cosa? Guarda che io sono 13 anni che faccio la linea a Vene, Varese, in barco a Patrasso, discesa a Brindisi e viceversa, capito? Culo così, 13 anni. E i soldi che mi sono portato nel portafoglio io sono sempre solo stati quelli della busta paga, capito? Eh? Dimmi più certe cose a me. Guarda che io non sono mica come Gustavo, non me la fai fare la fine di Gustavo. Il Gustavo, poverino. Ancora lì a casa, chiuso dentro, a cagarsi addosso che aspetta il verbale, l'atto giudiziario. E tutti a dire, lo sapeva, si era messo d'accordo, non poteva non saperlo. Cosa? Cosa sapeva? Sapeva cosa? Guarda che se lo sapeva, non li faceva mica morire là dentro. Non li faceva mica saltare tutti senza aria. Ma... il Gustavo era una situazione familiare mica tanto bella. E poi aveva certi casini con la sua moglie. E poi il figlio più grande era madre, quindi può darsi che... Ma può darsi che cosa? Cosa può darsi che? Può darsi che glielo vai a dire alla tua sorella, capito? Guarda che io il Gustavo lo conosco bene. Certe cose non le faceva, non le avrebbe fatte neanche se moriva di fame lui e tutta la sua famiglia, capito? Certo. Aveva una figlia più grande che si è messa con un'Africa che veglia un cancro, come diceva lui. Però certe cose lui non le avrebbe mai fatte. C'aveva una panza prima, ragazzi. Sì, sì, no, lo so cosa state pensando. State pensando che sto dicendo tutte palle perché i camionisti hanno il pancione mentre io. E ce l'avevo anch'io una volta. Perché poi, se ti succedeva a te quello che è successo a me, non lo so mica. Prima avevo una pancia. Guarda, non voglio esagerare, però avevo una pancia talmente grossa che a volte facevo fatica a far manovra con la Berta, perché la pancia mi sfregava il volante. Sì, c'è anche da dire che la Berta è una camionessa seria, di quella di una volta, con volante, sai, quello al cerchio, bello rotondo. Però anche perché io avevo il mio signor pancia, ci avevo fatto anche una canzone. Sì, magari non una di quelle da portare al festival. Però gli amici piaceva, e a volte mi dicevano, tre colpi, dai, canta la pancia! Io, bello, il tornello era... Faccio sentire un pezzettino. Cosa veloce, Più o meno facendo così, E da tata punzi pera pera pa, e da tata punzi pera pera pa, e da tata punzi pera pera pa, e da tata punzi pera pera pera pera pa. Mio caro amore, ti devo parlare, perché l'amore non ti posso più fare. Il tre colpi si sa di buona portanza, adesso però c'ha più grossa la panza. Poi andava avanti, parlava della ginetta, del fienile. Si può dire, cose di gioventù. Ormai. Sì, ma non è mica colpa della gioventù se non c'è più la panza. È che quella storia lì, io lo sapevo, porca miseria. Io sapevo che il cancro lì. È che la pancia non ce l'ho più. Perché questa storia qui è un po' come se l'avessi sgravata lì. Che poi tra l'altro ce l'ho anche riuscito. Un po' col fatto della vasellina, un po' col fatto che l'ho fatto sgomare la Berta, c'ero riuscito a non far saltarsi nessuno. Che poi quel giorno lì ero anche vuoto, ve l'ho detto, quando sei vuoto non ci saltano solo volentieri. È che con quei cancri lì non puoi stare tranquillo neanche quando. quando sei entrato dentro nel recinto, neanche quando sei dentro nel porto. Perché loro scavalcano quella rete giù in fondo, no? Che poi i barbisa li vedono e dicono, ma vai a prenderli, no? Fermali subito, no. Loro li fanno scavalcare, perché poi così possono inseguirli, prenderli a manganellate giù, martellate giù, picchia, bravo, picchialo giù, picchia, aperta giù, basta a tutti, picchia, porca miseria, picchia! Però quel sistema lì non funziona, perché tu ne prendi 100, ma loro sono 101, qualcuno ti sgattoglierà via sempre. E vai a infilarsi non sopra i cani che sono vuoti, ma sotto, lì vicino alle ruote di dietro, no? Dove c'è quella specie di sgabbiatura, lì vedi quella specie di... Dai, salta giù, dai. Poi Ciccio, salta giù che non c'ho tempo, dai. Vabbè, ci hai provato, ho visto, salta giù. Dai, salta giù. Oh, giù, da. Ma insistono, eh. Allora quello cosa fa? Ti guarda, vai là e ride. Ma che cazzo ridi? Ride. Scemo, t'ho beccato, ride. E c'ha ragione a ridere. Perché lo sa che tanto alla fine la vince lui. Perché te, se vuoi caricare la vetta, ti devi girare, no? Ritornare su. E proprio mentre ti giri, lui, op. Dai, salta giù, ho detto, dai. Dai, sono mica qua a scherzare, dai, giù e andare, dai, giù. Filare, filare, filare, via, dai. E quello, stress di prima, eh. Salta giù, ti guarda, e ride, e va. E ride, ridi, che la mamma ha fatto i gnocchi. C'ha ragione a ridere, te l'ho detto, perché te arriva il momento che a un certo punto, se vuoi caricare la berta sulla nave e non ti puoi più girare, non ti puoi più fermare, e allora proprio nel momento in cui tu accendi, metti in prima quello, oh, si infila, e tu allora porti su sulla berta, parcheggi nella stiva, e quando è bello che parcheggiato scendi e... ombre, topi, non so nemmeno io come spiegarti. Vedi, ma non è che vedi, senti, ma non è che senti con le orecchie, senti, senti con la pelle decine e decine di queste cose che scivolano via da ogni camion e vanno a infilarsi in ogni pertugio, in ogni buco della nave, e tu sei lì e non li vedi, e nemmeno li senti, ma li sai, ecco, li sai tutti come un'aria, immobile. Vabbè, va, vai dove cavolo vuoi, vai via, non fatti più vedere, vai, non mi interessa più dove, vai via, detto, via. Però ti dico una cosa, guai a te se ti avvicini ancora alla verba, capito? E dillo anche a tutti quelli come te, che se ti avvicini ancora una volta alla verba, sai cosa faccio? A te o uno di quelli come te, eh? Prendo la benzina e li brucio vivi, capito? Faccio vedere io chi ha tre colpi. E poi vado su a vedere la partenza. L'ho vista un migliaio di volte, ma mi piace sempre. È bello. Perché quando la nave si stacca dal matrasso, no? È un po' come se un'unghia si staccasse via. E va. E poi mentre ti allontani da lontano, le puoi vedere le case di quelli lì, eh? Case, si fa per dire. Loro hanno fatto una città tutta di cartoni, dentro e me l'ha detto dopo, wow. Loro prendono i pezzi di cartone, no? Li pestano, li fanno diventare una cosa dura e con quelle ci fanno le pareti, i mobili. Poi vanno nelle discariche e prendono tutto quello di cui hanno bisogno, che ne so, frigoriferi, cucini che hanno buttato lì. Ah, per la corrente usano il sistema degli zingari. Prendono un filo, si attaccano a punto e poi se la tirano a loro. I barbisa lo sanno, eh? E loro vanno via a staccarla. E loro, il giorno dopo, tutto da capo, prendono un filo, si attaccano dall'altra parte e se la tirano ancora. E sono così, ti prendono per sfinimento. Poi stanno lì, aspettano che un camion rallenti e loro sanno benissimo dov'è che deve rallentare, e poi vanno a infilarsi o sopra quelli carichi o sotto quelli vuoti e via di nuovo da capo a essere presi e riportati qua nella loro terra a farci in culo. Sì, perché te l'ho detto, no? Sono come topi, ombre. Sai quante ce ne sono sulla nave? E ma in più vengono presi, e riportati qui. E loro, il giorno dopo, la settimana, il mese dopo, a riprovarci. È il loro mestiere. Riprovarci. E dopo la partenza, io vado sempre a farmi qualcosa da mangiare. Ormai sono 13 anni. Il cameriere è sempre quello, eh? Robertino. A me mi fa morire perché la Elon moscia. Ciao tre colpi! Ciao Bertino! Come va tre colpi? Tutto bene? Sì, tutto bene! Solito tavolo! Fai quello che vuoi, cavolo me ne frega me del tavolo. Allora, tra domani, metterei il suo bel piatto, il suo bel bicchiere, metterei anche i fiori. Cioè, hanno il coraggio di chiamarlo spaghetti quella roba. A me sembra del binari. Robertino! Fa cagare, fai colpi, devi dire allo chef! Fai una cosa, Robertino, te lo chef, tutte e due. Cioè, allora vado giù a trovare la Berta. Vado giù nella stiva, vado giù dalla Berta. Mi metto lì e mi appoggio con la schiena alle ruote di dietro. Bello lì. E ogni tanto chiudo gli occhi e mi immagino di essere in un campo di grano, appoggiato al tronco di un albero. Però poi lo so, che se fossi davvero in un campo di grano appoggiato al tronco di un albero, vorrei essere qui, appoggiato alle ruote di dietro della Berta. E allora mi penso che, porcaccia la miseria, se toccando male dobbiamo per forza morire, io vorrei morire qui, appoggiato alle ruote di dietro della Berta. E poi incomincio a cantare. E da non si vera, vera. E comincio a pensare come sarebbe bella una vita senza preoccupazioni, eh? Solo cantare tutto il giorno, non pensare a niente. E da non si vera, vera, fa. E da non si vera. Dico, come si fa a abile senza cantare. No, metti che poi stai lavorando, no? E non dico giocando, ma lavorando. E non dico neanche che ti metti a cantare. Ma sì, col martello che batti sulla suola di una scarpa, no? Sì, perché da dove vengono quei ciulapecore qua? Le scarpe si sistemano ancora. E tu sei lì che picchi. A un certo punto, senza volerlo, esce. C'è gente a cui piace il mare, va bene, d'accordo, non dico tutto il mare, ma sta fetta qua, a chi serve? Serve a nessuno. Ma poi sai che spiani tutto, basta, niente più salite, niente più curve, ti fai la brividi di patrasso in due ore e mezza al massimo. Ma sai che risparmio? Vabbè, ma chi lo dice? Poi mangia lì. Figurati se mi danno le camere tre colpi. Vabbè. Comunque, quello della macchina grigia, niente, siccome avrei avuto una certa fame, io tiro io solo la cintura, non preoccupate, è che quando vado a mangiare mi piace star più, io mi sbottono sempre. Facciamo una cosa, inizio ad andare a mangiare qualcosa qua in trattoria del Nino, uno che conosco io, pesce fresco ragazzi, mica quelle porcherie che si mangia sugli autogrill in autostrade o chissà come, lì si mangia bene. Facciamo così. Se nel frattempo arriva quello della macchina grigia, se magari è andato in bagno, a volte è lunga, se arriva, se lo vedete, diteglielo, che io, insomma, tra un po' devo andare via, d'accordo? Magari anzi, lo lascio anche detto giù in fondo, se lo dicono al microfono, c'è da spostare una macchina, è grigia, non si sa la marca né la targa, però è grigia, davanti alla camionetta, mi fido di voi, Vado... No, non fate la faccia di quelli che dicono quello di convinto. Io vado bello tranquillo, eventualmente lo dite voi, se arriva, mi raccomando che vado a mangiare il mio vino, sta beccato, pensavo di averlo fatto a me, a tre colpi, Ma là, Pierletti, che deve ancora nascere quello che mi ha fatto sotto il naso a me, capito? Oh, per un momento pensavo di non averlo mica preso. Eh sì, perché ho tirato su e sembrava non ci fosse attaccato niente. Sai, come quando vai a pescare e tiri sulla lenza e c'è solo una lenza. Invece l'avevo preso, per un piede. E solo che poi quando l'ho tirato su pesava niente. Era solo vestiti, capelli e occhi. Due occhi così. Allora poi gli ho fatto passare la cinghia attorno ai polsi, gli ho legata bella stretta, e poi l'ho messo lì, l'ho incatenato sulla scaletta, che porta su alla ringhiera della scaletta della vetta. E poi gli ho detto, canta, canta adesso, canta. Canta, bastardo, canta, che così tutti i tuoi amici, quelli come te, ti vengono a sentire, dai. Così nessuno salta più sulla vetta, dai, canta, canta! E poi gli ho fatto sentire la firma, Rum, rum, rum, rum. Ma che dovevano sentirlo tutti che era il tre colpi. Ma guardate, io non dico di essere chissà chi, però io sono fatto così. Te mi tratti bene? Io ti tratto bene. Tu mi chiedi per piacere per favore? E io ti chiedo per piacere per favore. Tu non mi tratti bene? Tu non mi tratti bene. Non mi chiedi per piacere per favore? E allora io divento cattivo. Guarda un po' te, guarda che sono fatto io. Sono fatto così. E così poi 5 minuti dopo che sono ritornato in Italia, no? Appena fuori dal porto, mi infilo dentro in una via di campi, no? Tutti gli alberelli e pisci. E tiro fuori tutto l'estraneo che ho dovuto mandare giù quando ero di là. Che bello. Poi guardo la Berta, che già lo sa cosa voglio fare, e gli dico, Berta, dai, moriamo qua 5 minuti io e te, Mi appoggio lì, chiudo gli occhi e muoio un po'. Sì, perché per me morire vuol dire quella cosa qua. Vuol dire chiudere gli occhi e sentire tutto quello che ti sta attorno. Transiti uno secondo. Il vento sulla pelle. Poi senti il rumore che fa il sole quando spacca l'erba. E poi ti capita di sentire anche il rumore degli altri cani che se ne vanno via in lontano. Dai, stiamo qua così 5 minuti io e te, ma che bello Delta, dai. E poi se ti concentri bene, senti anche la voce di uno che canta in lontananza. Sì, è come uno che è arrivato nella sua terra e gli voglia di pisciare fuori una canzone. E allora inizia a cantare. E poi, se lo ascolti bene bene, non è neanche tanto lontano, però canta a bassa voce, no? E tu sei lì che lo ascolti. E poi se inizi ascoltando bene, bene, bene, ti rendi conto che non è che sia così tanto lontano, è che canta a bassa voce. Però se poi ti viene la curiosità di ascoltare bene, bene, bene, ti rendi conto che non è che è così tanto lontano, è che canta a bassa voce, ma porca di quella miseria, voglia. Ma salta giù da lì, ma come cacchio hai fatto? Ma guarda che adesso perdo la pazienza, Guarda che adesso ti scrollo via, ti faccio cadere e ti passo sopra con la merda. Ma guarda che roba di prima, come cacchio avevo fatto? Cioè, pensavo di aver distratto i polsi così tanto, di avergli rotto l'osso dei polsi, invece. E l'avevo usata la cintura, Si era messa dietro la schiena e l'avevo usata come cintura di sicurezza. Ma guarda che. Mi dai questa cintura, va, porco. Salta giù e via, dai. Bravo, sei arrivato in Italia, bravo, bravo. Adesso vai, fila. Guarda, puoi anche andare in giro a dire che mi hai ciulato, dai. Vai però, fila. Fila detto, via! Porca miseria! Guarda, poi non sono stato neanche lì a vedere se andava via o che cosa. C'avevo addosso un narroboto che se mi capitava con le mani lo strappavo. Sai come si fa con gli scontrini di autostrada quando non ti serve più? Che però non ci preso. Però. Doveva solo provare a avvicinarsi. C'avevo addosso una rabbia con un sputo. Spaccavo la gamba. Ma non mica visto dove era andato. Sono salito su sulla merda, ho acceso la radio. Adesso voglio vedere se c'è la musica, se si avvicina, ci penso di volta. Invece non c'era mica la musica, ma ci hanno un culo questi lì. C'era il radio giornale. Hai cominciato a raccontare di quello che corrompeva di qua, di quell'altro che veniva corrotto di là, della canzone che aveva vinto il festival di Sanremo, di quella che poverina era stata violentata. E poi di quelli che vengono presi e fatti schiavi qui in Italia. E vengono presi dai caporali, vengono portati nei campi a raccogliere pomodoro 10-12 ore al giorno. E zitti, E in cambio, poi i pomodori, qualcosa da bere. E silenzio, che se ti lamenti giù picchiamenti e ammazzamenti male. Insomma, le solite balle, tutte le cazzate. E quello lì? Stava lì. Ma che sei testone, porca. Anche se non c'era la musica, era lì, sentò a fianco alla verta. Oh, magari l'aspettavi, cacchio. E allora, Nino, via, vai, dai. Guarda. Mi guarda e ride. Cioè ride. Non è che ride. Che se solo ci provo a ridere gli faccio vedere io. Solo che c'aveva sta faccia. Era come se avesse una maschera, no? E sotto piangeva. Ma non è che piangeva. Come faccio a spiegarti? Guarda. Io ho sta faccia. Tu la vedi. No? Però poi posso ridere. Posso piangere. Lui quella di mezzo non ce l'aveva. C'aveva o quella che rideva, che però la metteva solo ogni tanto, oppure c'era questa qui, che è quella che c'era sempre. Insomma, non so se mi sono spiegato. Dai, porco Giuda! Via! E cosa fa? Fai il giro, salta fuori dall'altra parte. Allora, dai, ti ho detto, vai via, dai, che devo andare, su, dai, vai via, lasciami tranquillo, ma vai per il fatto, porca miseria! Cioè, spina, e vai avanti, va a cagare. Sei mai cosa me ne frega? Adesso ho sulla mia merda, me ne vado. Però sta attento, ma che guardo dallo specchietto, se ti infili sotto, faccio quello che ho detto prima, Hop, traballo, cadi giù, marcia indietro, passato sopra, non l'ho visto, È che io sono cretino. Sono cretino e curioso. Sono lì già pronto per partire, ho le chiavi già nel cruscotto, basta che giro prima, accendo e vado, e quello lì parla. Ma come parli adesso? Hai detto niente fino adesso? Adesso sto andando via a parli. Che poi è la verità, se neanche capito quello che ha detto. Quindi dico, ma che cacchio che ne frega, ma vai, no? Era a 2 metri, vai. È che però ha parlato, io sono curioso, porco giù. E allora salto giù, mi avvicino e lui sorride, poi vedo che vado un po' più vicino. Allora smette di sorridere, vedi l'altra faccia, cos'è che hai detto? Sei capace di parlare cristiano? No, cosa hai detto? Gua. Gua, sei un bel gua, io sì, sei. No, gua, si picchia la mano contro il petto, l'ho capito, gua è il tuo nome, adesso mica scemo, lo facevo per ridere, no? Gua. Cosa devo fare con te, porco Giuda? Allora mi avvicino. E lui vede, c'ho la cintura in mano e si nasconde dietro la verta, scemo. Ma se ti volevo picchiare l'avevo già fatto, no? Dai, salta fuori. E allora vado a infilarmi, a mettermi sotto dove mi si mettono loro, perché voglio vedere come cacchio fanno. Ma come cacchio fa per stare sotto qua? Porco Giuda, ma che è stretto bene. Sì, vabbè, anche la cintura di sicurezza, ma qua a me mi fa male già la schiena. Un attimo che sono qua, mi faccio male la schiena. Mi tira tutto il corpo. Poi ragazzi, sarà anche la mia camminessa, ma sembra di stare sotto il culo di una cammella. Mamma mia, che odore! E che cacchio! E poi è tutto spigoli, Ma come? Gua! Dove cacchio è andata a finire? Gua! Perché vedi la ruota di dietro, che sembra che da un momento ti debba venire a prendere. come nei film d'orrore, no? Quando vedi la sega dentata che si avvicina e tu sei lì tutto sudato, spaventato, e sotto la strada passa, ma non la riconosci mica, perché è una cosa che passa via veloce in un attimo, e tu pensi solo che basta niente, una pietruzza che si stacca dalla ruota di dietro ti viene a svaporare il cervello, e allora sei lì che sembri sabbia, sì, sabbia, sudata, bagnata, e lo senti il tempo che passa, ma non te ne rendi conto, perché ogni secondo riparte tutto da capo, rivedi la strada, ripensi alla ruota, alla pietruzza, al cervello, a spopolarti, e poi la cosa più buffa di tutte è che quando si è fermato l'unica cosa che avevo voglia di dirgli era grazie. Sì, a quella stronza lì. Grazie di essersi fermato. E poi sono rimasto lì, ancora attaccato alla Berta, con la testa nel suo a guardargli il culo. Perché lo sapevo anche che se scendevo subito, tanto ero conciato, dovevano raccogliermi come si fa con la pacca del cane, con la paletta. E allora ero ancora lì e ho sentito le voci. Erano lontane, confuse, non riuscivo a capire bene, o forse ero io che non stavo ancora messo bene. E poi mentre ero lì, ancora quattro zampe, ho visto le scarpe, sei paia. Una, con la punta, è venuta a darmi dei colpetti sulla fronte così. Poi dopo un po' ne è arrivata un'altra, è arrivata vicino a me. Ha spento un mozzicone di sigaretta e poi me la sono vista arrivare in faccia, veloce. E mentre la mia testa saliva in aria come un pallone, prima di tornare giù, ho visto Ua che si allontanava con la Delta. Sono entrato nel sogno di nuovo, l'ho sognato e lo ero nel contempo. Il volto bellissimo di una donna si è voltato verso di me. Aveva un velo sui capelli, ma ne riconoscevo il morbido ondulare dalla cadenza della stoffa. Io ho capito di non essere più io, quando ho visto dentro nei suoi occhi neri e profondi riflessi altri occhi, quelli di Gua. Ero lui. Anche quando ho allungato le mie mani per accarezzare il viso, ho capito che le mani non erano più le mie, erano le sue. Ne ho riconosciuto la magnitudine, l'inquieto tremore delle dita. Però il calore che sentivo sotto la pelle, quello di lei, non era per me, io lo stavo rubando. Poi, senza muovere le labbra e senza sorridere, la donna guardandomi ha incominciato a dire: ieri notte hai passeggiato nel bazar delle trecce nere, mi hai accolta, scarruffato e coperto di stracci. Questo non serve. Tu invece mi hai messo in testa una corona di nocciole di papavero, hai buttato il tuo cuore in una buca. Tu sai la paziente melodia del mio silenzio, quante volte è stata tolta dalle labbra la mia canzone. Tu sei le bacche di vino sparpagliate che torneranno nel mio regno. Ero ancora dentro nel sogno, che già mi dicevo, mio Dio, quel culo di stracci ha un amore, lui, ombra strisciante negli anfratti, ha un amore. Volevo allontanarmi da lì, volevo andare via da tutto quel calore, quell'amore, che le mie mani arruffavano l'aria, ma che non era per me. Volevo staccarmi da quel sogno, allontanarmi. E mentre dormivo, mi agitavo e che cavolo! Sono mica mani di donne queste qua, Ce n'è uno qua a fianco che mi dà dei colpetti in faccia, ma che cavolo, ma dove cavolo siamo? Parli, mi dice delle cose, ma che ti capisci? Parla o parli cristiano, è inutile. Parla. Non ti capisco, guarda. Ma dove cavolo sono finito? E allora mi guardo attorno e mi vedo tutta gente che dorme in mezzo vestita, un caldo, un motore. Ma dove cacchio sono? Poi vedo che c'è una porta in fondo. Allora vado per andare verso la porta, ma quello di prima, quello di colpetti, mi si mette davanti e incomincia ancora a parlare. Non ti capisco. Parla. Non ti capisco. Se ti sposti, per piacere, devo andare... Sì, però se ti levi, spostati! Allora! Shhh! Quelli che dormono si lamentano. Shhh! Parla davanti, scende, parli là. Però quando mi giro, vedo che quello che c'è davanti a me ha una faccia spaventata, terrorizzata. Va bene. Ti do ascolto, sto qua un attimino anche perché mi fa male la testa. Ora deve essere stato il calcio. Del cacchio siamo? Sono un matrasso. Sì, per forza, capisco niente di quello che dico. Si va, cacchio, parla. Ma sì, sono un matrasso. No, aspetta un momento. Io sono qui da matrasso. Ho preso la Berta, poi ho incontrato quello che hai visto. Ma ci ho dato la Berta! Quello stronzo mi ha ciullato la Berta! Quello stronzo mi ha ciullato... Scicola! Mi ha ciullato la Berta, capito? Quello stronzo mi ha ciullato la Berta! E poi d'improvviso, da un angolo, uno si toglie una coperta. E quando si toglie la coperta esce un odore di acido, di piedi, madonna che... E si tira su. E mentre si tira su mi rendo conto che non è un uomo, è una montagna. E viene verso di me con una faccia cattiva, mi vomita delle parole che però io non capisco. E mi rendo conto che è incazzato perché l'ho svegliato. Io voglio fargli capire che non è che volevo, è che quello stronzo lì mi ha ciullato la Berta, mi sono girati i capelli, allora io... E poi alza una mano, che non è una mano, è una pala. Io cerco di rammicchiarmi, di difendermi. Cioè, quello che ha detto non l'ho capito. Però male ha fatto male. E allora me ne sto qua un attimino, va. Cerchiamo di capire che cacchio siamo. E poi dopo qualche minuto, di nuovo tutti che dormono, russano, qualcuno parla nel sonno. Siamo gente di paesi diversi. Mi si è avvicinato quello di prima, quello dei colpetti in faccia. Mi parla all'orecchio, piano piano, lentamente, perché le parole le cerca da un dizionario. È vecchio, si vede, ha una copertina rossa mangiata, tutto, le pagine sono tutte rovinate. E mi dice, siamo gente di paesi diversi. Di Polonia, Africa, Afghanistan. E inizia a spiegarmi che lui, ad esempio, è uno studente polacco, che insieme ad altri suoi amici è venuto qui per passare qualche mese, anche solo un'estate. Poi hanno incontrato i caporali. E sono stati gentili all'inizio, Poi però li hanno portati qui. A raccogliere pomodori 10-12 ore. E zitti, senza lamentarsi. Come paga? Qualche pomodoro, qualcosa da bere, ma niente di più. Siamo. E lui mi guarda e mi dice, nel tuo paese? Che cazzo? Ma sei scemo? Ma qual è il mio paese? Ma figurati. No, non siamo nel mio paese. Guarda che io vivo in Italia, non siamo nel mio paese. Ma che cacchio stai dicendo? Non è la verità quello che mi dice. No, mi dice lui, non è verità. La verità sta a qualche chilometro più là, dove tutti vedono, ma nessuno guarda. Dove tutti stanno, ma nessuno fa niente. E poi ogni tanto qualcuno di voi scappa, va, corre, ma tanto viene ripreso, viene portato qua e giù, ammazzamenti, morte, silenzio. E ti va anche bene se va così, perché qualcuno mentre scappa con pistola, pam, e ammazza. Ma che cacchio sei dicendo? Ma cosa credi che siamo nel medio io? Guarda che in Italia queste cose non esistono, hai capito? E poi cerca di tenermi, ma io c'ho piuttosto una rabbia nel corpo che lo sbatto via. E gli altri e vado giù verso la porta e quello di prima, la montagna di prima fa per alzarsi e venire a prendere, ma io sono veloce, arrivo alla porta che però la miseria è chiusa, allora dice aprite, guarda che uscire qua, aprite. Quando aprono la porta vengo sbalzato in avanti, respiro un'aria così buona che non ce l'ho più abituato, i polmoni quasi mi fanno male e c'è una luce che arriva da fuori accecante, faccio il tempo solo a vedere un paio di scarpe, quelle che spegnevano un mozzicone di sigarette. E poi io cerco di ripararmi, è solo che le braccia sembra che sono senza energia, ma mi vengono su. E poi basta. Ricordo solo che prima di svenire qualcuno mi ha preso per la cintura e mi ha riportato dentro, nel mio paese. Domani scappiamo, ecco per il polacco di prima. Domani, ma non di notte, mezzogiorno, che loro di notte sta più attenti. In mezzogiorno invece vanno a mangiare, ce ne pochi, e poi fanno la gara di tutti. Io ormai è qualche giorno che sono qua, Ho provato a dirlo, che io non c'entro niente, io sono italiano, non c'entro con questi qua. Caporale, sono italiano io, Se mi fa uscire. Ma lui si è messo a ridere. Italiano, sì, come no. Italiano, ma viaggi sotto il camion, Bravo però, parli bene, bravo. No, io sono italiano. Si sono fatti una risata. Ieri, mentre raccoglievamo pomodori, un negro ha visto una macchina passare via. Porca miseria, lasciatemi tutto, cassette, piantini, pomodori. Ha incominciato a correre, ma veloce, ma così veloce che io in vita mia non avevo mai visto nessuno correre così veloce. E pensare che ci danno da mangiare 4 pomodori al giorno. E poi è rimasto lì immobile, a vedere il culo della macchina che si allontanava. Che da negro che era diventato bianco. Perché la polvere che alzava la macchina si andava ad attaccare alla sua pelle, al sudore. Non deve averla neanche sentita la bastonata che gli è spaccata la testa. Era lì, sembrava una statua immobile, con sangue che gli colava, sembrava statua anche lui. Poi, quando è caduto per terra, io volevo provare ad andare lì a vedere se si poteva fare qualcosa. Ma il polacco mi ha guardato con una faccia, come dire, lascia stare, non c'è più niente da fare, lascia. Quel giorno lì, per punizione, ci hanno fatto raccogliere i pomodori per 2 ore in più. Che quando abbiamo finito era così buio che non si vedeva niente. Per dire la verità io faccio solo finta, perché è dal primo giorno che mi hanno spezzato le braccia e non riesco più a muovere. Io volevo dire ai caporali, ma il polacco mi ha detto, non dire niente, non dire niente, che se quelli capiscono, o tu dici, e ti ritengono inutile e ti ammazzano. Che cazzo, hanno provato a aggiustarmi, ma faceva solo male. Tu stai vicino a due di noi, in mezzo, e fa finta, muovi spalle, fa finta di raccogliere, ma non dire niente. E così ho fatto. Dicono che tanto poi le fratture si ricompongono. Ah, intanto fa male. Domani tanto scappiamo. Oh, ma non dirlo africani o afghanistani, che sennò vengono anche loro. E poi i caporali se ne accorgono, se mancano tutti. Mi hanno spiegato come fare. A mezzogiorno precisi, giù, piegati. E poi via di corsa, dietro le robe. E poi siamo in 10-12 ore, aspettare il buio. Poi su, in alto sulla collina e via verso la libertà. Io non gli ho detto che non vado con loro. Non me la sento, non so, ho paura. Intanto però il giorno dopo arriva. E arriva anche mezzogiorno. Effettivamente i caporali vanno a mangiare. E li senti, da lontano. Fanno le loro gare di e i polacchi sono così bravi che anche se lo so, quasi non me ne ricordo che stanno andando via uno alla volta, dietro ai robi. Alla fine rimaniamo io e mio amico. Lui mi guarda con una faccia come dire, dai, vai tu. Io lo fisso per un po' e dopo un po' lui capisce. Ma sei sicuro? Vai polacco, vai tu. Vai, non ti preoccupare, vai. Vai, preferisco così, vai. E allora lui va. E prima di girarsi, di apparire dietro i rovi, si gira verso di me e mi saluta. E io provo a salutarlo, ma le braccia mi fanno male. Però insisto e scopro che alle volte è bello salutare con fatica. Ma che cacchio! E quando mi rigiro, c'è sto qua che mi pisce sui piedi. Non dice niente, mi guarda e pisce. È il caporale, quello che spegne le sigarette con le scarpe. Mi guarda, io lo guardo, faccio la faccia che ride. Poi però mi guarda il braccio, me lo prende, me lo stringe. Io faccio la faccia che ride, ma mi esce un ai e una lacrima da sola a secco. Allora lui mi riguarda, fa un sorriso, prende l'altro braccio, me lo stringe tutte e due. Io ci provo a resistere, ma non male. E dopo un attimo vedo i polacchi che ritornano indietro. C'è un caporale a inizio fila e un altro alla fine con 2 pistole. E poi si sente solo il rumore veloce dei pomodori che vengono staccati dalle piantine. e guardo il caporale in faccia. Mi guarda, ride. Ha capito? Ha capito che sono inutile, non serve. Vedo che c'ha una tasca gonfia. Mette la mano in tasca e quando la tiro fuori c'ha una pistola. Io chiudo gli occhi. E ta ta ta punzi pera, pera, pera, ta ta ta punzi pera, pera, pa. Il caporale si gira incazzato. Chi è che cambia il momento come questo? Oh! Chi è che si permette? Tutti lo guardano. Non ha cantato nessuno. Mi raccomando, eh. Allora gli fa un passo indietro. Riprende la pistola e ta ta ta punzi pera, pera, pa. Si gira incazzato come una beppe. No, qualcuno sta cantando. Oh! Chi è che canta? E siccome sembra che arriva dai loro, manda due altri caporali a guardare, e poi li passano, fanno un giro, e poi quando tornano hanno una faccia, un'espressione da dire, perché non c'è nessuno. Cioè però hanno sentito un qualcosa, come un brivido, un'ombra che basta sentire. Ma non c'era nessuno. E allora riprende la pistola e sta per sparare quando. Dalla collina, spunta il viso della vetta. E inizia a venire giù, che fa tremare la terra, che quello si gira e cerca di sparare, ma intanto finisce in aria gli altri caporali che non sanno di cosa fare, che sono lì come dei denti, la terra trema, e la verga che viene giù a tutta velocità, e viene tutta pomodori, e piantine, e castelle, e quando le due vedi da me.